a dicembre. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema. Hi guy, you are on Italian Podcast Network. Archeologia videoludica 4X02, speciale preservazione videoludica. Diciamo speciale perché ovviamente vi renderete conto dal fatto che stiamo uscendo praticamente a 2 settimane dall'episodio standard, perché durante questa stagione, pur rimanendo con quella che dovrebbe essere la numerazione standard, anche se poi nuovi accadimenti, nuovi assorbimenti hanno già fatto cambiamenti da questo punto di vista decisionale, comunque noi abbiamo deciso di mantenere la numerazione standard anche negli episodi speciali. Gli episodi speciali sono quegli episodi che capitano saltuariamente e che parlano di un argomento specifico, lo fanno in maniera abbastanza approfondita senza avere tutto il team al completo. Quindi potrebbe capitare, come ad esempio in questo episodio, che ci sono soltanto io e Roberto Bertoni. Ciao a tutti cari, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. O potrebbe capitare c'è Roberto con Santillo, o potrebbe capitare Santillo con Marco, chissà, potrebbe capitare insomma tantissime cose. Ci sono molti episodi già in preparazione anche dal punto di vista degli speciali. Prima di iniziare vi dico che insomma, se per chi, quei pochi che non lo sanno, è già uscita la nuova puntata, quindi la prima puntata ufficiale della prima stagione ufficiale di Archeologia Informatica, il programma che facciamo con Justin Rosati, Carlo Sant'Agostino e Stefano Paganini. Chiaramente era un podcast molto molto molto atteso, si intitola Il cervello elettronico, e parleremo a grandi linee della storia del microprocessore, delle CPU, quindi è una cosa abbastanza interessante. E per quanto riguarda invece il fronte IPN, sta veramente per arrivare questa versione 2.0 del network, stiamo lavorando alacremente, abbiamo trovato una grossa sponsorizzazione, stiamo facendo una fusione con un'altra realtà, e quindi aspettatevi grossi novità nelle prossime settimane. Già c'è stato una sorta di countdown nella pagina di Italian Podcast Network, che però si è fermata a -1, attenzione, chissà perché noi siamo quelli dei teaser, poi dopo non sappiamo più dove mettere le mani, in realtà non è vero. Continuo ad esortare ovviamente tutti gli ascoltatori di buona volontà, ma senza ovviamente nessun impegno, a continuare la campagna a sostenere IPN andando sul sito www.italianpodcastnetwork.it e cliccare sul pulsante PayPal e continuare a fare le donazioni, perché abbiamo, grazie ovviamente a tutte le donazioni che sono arrivate durante questo inizio stagione, abbiamo comprato già 3 microfoni per 3 nuovi membri del cast, ne mancano altri 2, quindi sostenete ancora il progetto, perché abbiamo bisogno ovviamente di rendere l'audio di tutti quanti sempre insomma all'altezza di quello che è stato lo standard di Italian Podcast Network. E ci troverete a fine ottobre, caro Roberto, chissà se ci sarai anche tu, alla Games Week a Milano, quindi possiamo dire che noi andiamo lì per cercare di fare un colpaccio, sappiamo se ci riusciamo, però noi comunque saremo lì, almeno il venerdì e il sabato ci siamo sicuramente. Roberto, ci sarai? Beh, considerando che allora voi venite da molto più lontano di me, io potrei dare un bidone colossale. Tutta la fatica, sai, fare quei 30 km che mi separano da Milano potrebbe essere impegnativo. Vabbè, ma noi da te ci aspettiamo questo ed altro, insomma. Va bene, diamo i riferimenti, entriamo poi nel vivo della trasmissione, quindi www.archeologiavideoludica.net per poco. ancora at Videoludica è ovviamente il nostro Twitter, ci trovate su Facebook e su Google Plus con Archeologia Videoludica cercando le rispettive pagine, archeologiavideoludica@gmail.com e invece è la nostra posta elettronica. Entriamo quindi nel vivo di questa puntata che anche negli speciali si chiama comunque il Barnett College. Allora, abbiamo detto 4x02, la preservazione videoludica. La preservazione videoludica è un tema, insomma, è un tema tirato fuori da Bertone. E poi in realtà c'è anche un motivo, perché per chi conosce All Games Italia sa che comunque allgamesitalia.net ha sempre avuto questa sua particolare attenzione verso un certo tipo di preservazione, magari più sul lato digitale, però comunque l'archiviazione e la preservazione è un aspetto, insomma, che fa parte delle politiche, insomma, di All Games Italia, è sicuramente uno dei pallini di Roberto. Poi ovviamente ci spiega Roberto il perché ha voluto entrare in questo tema, che insomma è un tema abbastanza ampio e insomma racchiude poi anche diversi aspetti, si chiude il discorso sia della preservazione digitale che del packaging, del deterioramento, degli aspetti morali, come ad esempio possono essere anche il discorso del copyright, dei giochi freeware, dei giochi liberated e via dicendo. Insomma, questo grosso tema, che in realtà può sembrare molto ristretto ma che in realtà è molto ampio, Roberto, perché l'abbiamo tirato fuori? Ma innanzitutto ti ringrazio, perché ho notato che con piacere ti sei già lavato le mani, nel senso che se la puntata viene fuori in qualche modo con quei demi, quindi giustamente, certo, chiaro, mi carico di responsabilità come il piano editoriale. Io lo faccio per te, per darti merito di quello che è il tuo lavoro autorale. Grazie. Poi peraltro apro una parentesi velocissima, che stavo ascoltando alcune puntate vecchie e mi sono accorto che già nella seconda stagione parlavamo della seconda generazione di console e ci siamo portati fino alla quarta. Esatto, perché poi dopo le console abbiamo proprio accannate a un certo punto. Esatto, io sono abbastanza preoccupato, però sono contento di questo speciale che appunto spezza magari un po' la linea temporale e introduce degli argomenti interessanti, quindi benvenga e spero che appunto l'idea piaccia anche ai nostri ascoltatori. Beh, sicuramente gli ascoltatori, quelli più attenti già dal primo episodio, stanno notando il diverso taglio, anche insomma comunque l'impronta che vogliamo dare a questa trasmissione quest'anno, che vogliamo che diventi la più importante stagione di archeologia videoludica di sempre. Quindi ci teniamo insomma molto a cominciare a fare le cose sì divertenti, ma sicuramente fatte con i giusti crismi. Roberto, torniamo alla preservazione videoludica. Sì, allora, giustamente come dicevi anche tu è un tema molto ampio, nel senso che racchiude comunque diversi argomenti e diversi concetti, ed è proprio per questo che, nel senso, l'ampiezza del tema e comunque l'urgenza, e spiegherò fra poco perché urgenza di trattarlo, ha fatto sì che in qualche modo decidessi di proporti questo episodio e sono contento che tu hai accettato. L'urgenza perché? Perché comunque il videogioco, ormai lo sapete tutti, è diventato un fenomeno di massa mondiale. Se pensiamo all'ultimo GTA, ha avuto uno sproposito di copie, nonostante un budget inside 261 milioni, rientrato ampiamente già dopo la prima settimana. Quindi capite che il numero di giocatori, il numero di persone interessate al fenomeno di videogioco è sempre più ampio. E essendo sempre più ampio, cosa succede? Che entra naturalmente all'interno della coscienza popolare, entra all'interno della cultura, quindi entra a far parte un po' della nostra storia. E quindi è giusto un po' studiare le origini di questa storia e soprattutto rendere possibile che queste origini possano essere studiate. Da qui appunto il discorso della preservazione. È un discorso ampio, dicevo, perché non riguarda il semplice videogioco in sé, ma riguarda appunto un discorso che comprende ad esempio il supporto fisico, magari oggi meno importante ma agli albori era qualcosa di fondamentale, che riguarda come questo supporto fisico in qualche modo può essere supportato oppure mantenuto in modo tale che i giocatori di oggi possano giocare a titoli di 20-30 anni fa. Si parla un po' dell'hardware, che nel tempo comunque si deteriora anch'esso, e tutte le problematiche che possono essere collegate. Si parla anche della diffusione, quanto e come un videogioco può essere legato a situazioni temporali, situazioni geografiche, in qualche modo nei limiti della fruizione ad altri utenti. Ecco, insomma, il concetto è molto ampio. E facendo un parallelismo con un altro media, il cinema, che a causa della mia presa coscienza tardiva ha fatto sì che quasi il 70% delle prime opere, per i 10-15 anni, venissero perdute, è importante introdurlo già adesso e comunque parlarne, in modo tale che in qualche modo, parlandone, si possa creare una coscienza, un movimento, comunque un interesse verso un tema che ritengo sicuramente importante. tu penso che adesso, giusto per attaccarmi un attimo anche alla tua storia, penso abbia una storia videoludica appunto che peschi da diversi anni fa. E purtroppo io non ho avuto la lungimiranza della preservazione. Questa è una cosa di cui magari in altri ambiti ne ho già parlato e di cui mi rimpiango molto, ma probabilmente allora, quando noi utilizzavamo determinate cose, non ci sarebbe mai venuto in mente che sarebbero diventate pezzi così importanti anche dal punto di vista storico. E appunto questo aspetto, cioè, senso, giusto per appunto collegarmi a quello che stai dicendo, è questa mancata coscienza che chiaramente in maniera naturale negli anni non si aveva, è giusto in qualche modo venga supportata adesso per, diciamo, mettere le pezze là dove è possibile. Cioè, in questo momento adesso non so dirti magari i titoli esatti, ma sono convinto che alcuni titoli siano già trovabili e non più giocabili, oppure, diciamo, in seria difficoltà, passatemi il termine, di conservazione, questo sicuramente. Certo, certo. Quindi parlarne è importante, peraltro, e poi mi attacco magari iniziamo la puntata, entriamo un po' nello specifico. Negli ultimi anni sono creati anche diversi istituti, diversi musei, diversi archivi che in qualche modo si stanno già orientando verso questa scelta di mettere il tema della preservazione videoludica al primo posto, e quindi in qualche modo diciamo che a livello globale o mondiale questa coscienza si sta creando. Però il giocatore medio, come giustamente penso tu sappia, non sente questo bisogno, e appunto penso sia importante parlarne. Sì, perfetto. Infatti in questo episodio, ovviamente parlando della preservazione videoludica, poi affronteremo direttamente e indirettamente anche quello che è il bene, ma anche di striscio, insomma, anche quello che è il male di questo aspetto della preservazione videoludica, perché poi ovviamente ci sono anche angolature o comunque realtà che sicuramente non fanno poi realmente il bene specifico della preservazione in sé. Però al di là di questo, in che maniera noi affronteremo questo episodio? Questo episodio lo abbiamo pensato come una sorta di show radiofonico, ma anche come un docu podcast. Quindi avremo tutta una serie di interventi anche abbastanza illustri, anzi senza l'abbastanza, anche illustri, ai quali noi abbiamo posto 6 domande, ossia noi insieme a Roberto ha ideato praticamente le 6 domande fondamentali che ci interessavano, degli argomenti che ci interessava trattare ovviamente sulla preservazione videoludica, e abbiamo posto queste 6 domande a 6 persone diverse che ovviamente ci hanno risposto. Noi poi ascolteremo chiaramente la risposta che ci è stata data e faremo anche dei brevi commenti rispetto a quelli che sono gli spunti lanciati ovviamente dalle varie persone che sono state coinvolte ovviamente in questa, che tra l'altro poi ovviamente ringraziamo. E detto questo, a questo punto io direi che possiamo anche iniziare questa conversazione, Roberto, partendo già dalla prima domanda che abbiamo rivolto ad Andrea Dresseno dell'archivio videoludico di Bologna. E che cosa gli abbiamo chiesto? Innanzitutto mi sembra giusto un po' contestualizzare quello che è il problema, quindi chi meglio di Andrea potrà rispondere alla domanda di quanto fosse urgente, o quanto, scusate, quanto sia urgente il problema della preservazione videoludica, soprattutto alla luce della velocità con cui i nuovi titoli vengono immessi sul mercato. È una domanda importante in quanto, come ben sapete, il numero di titoli che ogni anno esce è innumerevole, quindi mano a mano che si accumula, diciamo, una massa critica, quanto diventa urgente iniziare una questa opera di raccolta, comunque di preservazione, in modo tale che non si arrivi a un punto in cui non è più possibile concretamente seguire quelle che sono le uscite, e quindi si rischia di perdere magari qualche pezzo lungo la strada. Ciao a tutti. Dal mio punto di vista la preservazione del videogioco è importante non tanto alla luce della velocità con cui le nuove uscite escono sul mercato, quanto piuttosto alla luce di quanto i vecchi titoli spariscono dalla circolazione, perché rispetto a media più tradizionali come il libro, pensiamo al libro che comunque si può recuperare facilmente nelle librerie, viene ristampato, una diffusione maggiore, il videogioco tende a sparire velocemente dagli scaffali e a rimanere in mano ai collezionisti che poi o lo contengono appunto ad uso privato o lo rivendono a prezzi esorbitanti su eBay e sui mercatini. È invece importante, secondo me, che i videogiochi vengano salvati da istituzioni, soprattutto che possano garantirne una preservazione costante e anche accessibilità, perché secondo me la preservazione deve andare di pari passo con la fruizione, quindi il gioco deve essere sì salvato e conservato nel migliore dei modi, ma reso fruibile appunto sia agli appassionati che agli studenti, quindi bisogna garantire l'accessibilità, che è poi l'idea che sta alla base dell'archivio videoludico. Molti ci chiedono che cos'è l'archivio videoludico. Per farla breve, direi che è una sorta di biblioteca del videogioco, quindi un luogo che conserva il patrimonio storico videoludico e cerca di promuovere percorsi di studio, laboratori didattici appunto con le scuole e anche eventi, quindi rassegne cinematografiche, festival e convegni. Penso ad esempio a Svilupparti, che è la festa degli sviluppatori italiani che ospitiamo già da alcuni anni all'archivio, oppure anche il premio Wired, che ogni anno vuole premiare le migliori tesi dedicate ai videogiochi realizzate nelle università italiane. Quindi diciamo che l'archivio videoludico punta a conservare il patrimonio storico e renderlo fruibile. Questa è la differenza maggiore rispetto ad un museo, che ha funzioni, finalità espositive. In archivio ci sono circa 3200 giochi al momento, che diventano più di 3500 se consideriamo le collection. Qui un purista potrebbe storcere il naso, perché la collection di fatto conserva il gioco ma non l'originale, però è anche vero che è una modalità comoda per chi deve studiare o recuperare un vecchio gioco per accedervi. Poi è naturale che col tempo si possa puntare a recuperare anche l'originale. È auspicabile che nascano più archivi in Italia, qualcosa all'estero già c'è. Mi viene in mente l'archivio di Rochester, che è un archivio dedicato non solo al videogioco ma più in generale ai giochi elettronici. Mi viene in mente l'archivio che c'è a Kyoto, ce n'è alcuno anche nel Regno Unito. Ecco, diciamo che all'estero qualcosa c'è, e la mia speranza è che ne nascano sempre più, soprattutto in Italia, anche perché un archivio da solo non può conservare tutto, dato che lo spazio non è infinito. Ovviamente quello che si potrebbe dire, che potrebbe essere contestato, è il fatto che basterebbe salvare il codice originale, e quindi il codice digitale, non tanto il supporto. Però secondo me salvare il supporto, salvare l'originale ha comunque senso, perché in questo modo si salva anche il paratesto fatto appunto dal manuale, dalla custodia, che sono comunque oggetti che in qualche modo raccontano qualcosa del gioco e che per l'archivista o lo studioso sono importanti. Basta pensare che i manuali negli anni 80-90 erano oggetti molto ben studiati, erano quasi delle vere e proprie pubblicazioni. Oggigiorno quasi non ci sono più all'interno dei giochi, ma in passato erano dei piccoli volumi, anche molto belli a volte. Poi sì, sicuramente bisognerà che gli archivi comincino a pensare alla conservazione del contenuto, perché i supporti, come ogni cosa fisica, sono destinati al deperimento nel corso del tempo. Però questo tipo di progetti secondo me possono venire in un secondo momento, sia perché sono costosi, sia perché vanno strutturati per bene. Quindi diciamo che secondo me il primo passo già importante è quello di appunto di creare dei luoghi di conservazione dell'oggetto concreto, e poi nel tempo cominciare a pensare a come salvaguardare nel migliore dei modi anche il contenuto, ecco. Allora, ringraziamo intanto Andrea e metteremo ovviamente nelle note dell'episodio i link relativi all'archivio videoludico di Bologna, che tra l'altro, come dicevamo prima, ovviamente direttamente e indirettamente poi affronteremo anche i diversi modi di approcciare la preservazione videoludica, e l'archivio videoludico di Bologna è praticamente un aspetto abbastanza interessante, perché poi in realtà è una biblioteca consultabile. È come l'archivio, un archivio cinematografico, un archivio appunto una biblioteca appunto di libri e via dicendo, insomma. Quindi secondo noi un ottimo approccio, ed è importante insomma magari dare anche spazio a questa realtà. Quindi troverete ovviamente nelle note dell'episodio quello che i relativi link insomma per andarlo a studiare e conoscere meglio ovviamente. Roberto, allora intanto partiamo dagli spunti che ci ha lasciato Andrea adesso, no? Sì, diciamo che secondo me sicuramente quello più importante, se vogliamo, è proprio la differenza magari fra museo e archivio, nel senso che lui proponeva o spingeva proprio in maniera rilevante il concetto di archivio come biblioteca, in quanto il videogioco comunque è un media che sta nella fruizione, che trova nella fruizione il suo compimento, una fruizione interattiva. Quindi diciamo posizionarlo in un semplice museo e lasciarlo lì a prendere polvere non è che probabilmente sia la soluzione migliore per permettere una vera preservazione. Quindi sicuramente sottolineare questo aspetto e il fatto che l'archivio in qualche modo permette appunto di prendere in prestito le opere, di provarle, di giocare anche all'interno dell'archivio, credo sia un aspetto veramente importante. Peraltro il catalogo che sta man piano nel tempo presenta sia giochi fisici sia giochi in digital delivery, quindi comunque è uno sguardo a 360 gradi, quindi sicuramente importante. E contestualmente, come anche ricorda lui, c'è anche la parte di supporto fisico, quindi che può essere il manuale, che può essere tutto quello che è la costruzione oltre il videogioco, quindi oltre il codice, che è resa disponibile, fruibile direttamente al giocatore. Quindi appunto si crea un'esperienza a 360 gradi, un'esperienza immersiva e completa, cosa che magari in un museo non è sempre possibile, anzi si tende a una preservazione statica, che non appunto con un videogioco personalmente diciamo che cozza un poco appunto con l'idea stessa del giocare. No, infatti io conoscevo l'archivio videoludico di Bologna, ma in realtà non avevo, ammetto insomma la mia colpa, non avevo mai approcciato in maniera approfondita. E in effetti, rispetto a questo gran parlare dei musei, museo di qua, museo di là, in realtà è un approccio molto più interattivo per certi versi, sicuramente molto più dedicato a chi poi si approccia in termini di studio rispetto a quello che è il videogioco, piuttosto che una conservazione atta magari a un pubblico più generico. Quindi è una cosa assolutamente interessante. Una delle questioni che Andrea ha posto è una delle questioni che a me tra l'altro sta molto a cuore, perché in effetti è una di quelle cose nelle quali mi sono imbattuto più spesso e volentieri, e a volte anche in maniera abbastanza dura, con diversi anche contrasti non da poco, è quello del collezionismo. Perché il collezionismo, ovviamente, nella stragrande maggioranza delle occasioni è un collezionismo sano, fatto comunque di un reale interesse per una archiviazione anche a titolo personale di oggetti, di giochi, di quello che può essere. Ma però poi tante volte, e questo lo abbiamo visto anche, non soltanto chiaramente, ma l'abbiamo visto anche nelle pagine di All Games Italia, anzi nei forum di All Games Italia, c'è il rischio che poi diventa una speculazione incontrollabile, e non soltanto, tante volte ci sono anche sotto delle cose che magari sono poco chiare, tipo insomma, che persone danno dei soloni pazzeschi, insomma. Io questa è, non so tu, che se è una cosa insomma che aveva attirato un po' la tua attenzione come tipo d'argomento. Sì, l'argomento purtroppo è interessante, dico purtroppo perché un po' come te diciamo che sono stato scottato da quelle che sono un po' le esperienze personali, un po' di quelle che sono le vicissitudini che nella quotidianità del forum in qualche modo si vedono. Giusto per chiarire, il discorso del collezionismo come diciamo ancora di salvezza per la conservazione del videogioco è sicuramente importante, nel senso che laddove non possono arrivare archivi e musei, il fatto che qualcuno comunque per collezionismo o per fissa personale, per quello che volete, in qualche modo conserva delle opere, è sicuramente importante. Però queste opere spesso rimangono a in una teca di vetro irraggiungibile e diventa più che motivo di conservazione, motivo di vanto o del ce l'ho più lungo, passatemi il termine, ma il concetto fondamentalmente è quello. E d'altro canto, nel momento che si entra nel mondo del collezionismo, si entra in un giro spesso di speculazione che personalmente è dell'assurdo. Se penso ad alcune valutazioni dei giochi LucasArts, siamo sì, in Italia, particolare i giochi LucasArts, esatto, sì. e non c'è un motivo particolare, semplicemente perché c'è la moda del momento, c'è la fissa di in questi anni di questo tipo di collezionismo. Veramente si trovano situazioni assurde, e oltre che essere assurde si assiste a un gioco di conoscenze, di trilogie, contatti segreti, tutto quello che è il male, se vogliamo, del videogioco, sì, concentrato per qualcosa che comunque è una passione alla fine. Cioè veramente ho visto Monkey Island arrivare a valutazioni di 1.000-1.500 euro perché erano cellofanati e scatolati, perfetto. Però si perde un po' anche il concetto di comunque videogioco, nel senso che se rimane un feticcio confezionato e plastificato, è vero, è sicuramente bello, è un oggetto a collezione quanto volete, però si perde un po' quello che Andrea diceva inizialmente, che è quello, la valenza vera del videogioco, il giocare, si perde un po', certo, questa passione. Poi non tutti, certo, sono così, ci sono collezionisti, conosco collezionisti, persone eccezionali, disponibili. Sì, sì, voglio. Io conosco gente che compra lo ZX Spectrum, lo attacca al televisore e ci gioca. Cioè, nel senso, che poi voglio dire, è una visione, no? Non è detto che poi il collezionista puro, è chiaro che non lo comprende questo. Il problema è che va bene anche il collezionismo puro, perché è una reale conservazione dell'oggetto nella sua integrità. È vero pure che poi, ecco, questo tende, insomma, a diventare una speculazione. Ma andiamo poi al secondo aspetto, insomma, rilevante, che ha fatto ovviamente risaltare Andrea nel suo intervento, che è quello se salvare il supporto o il codice. Chiaramente qui poi io e Roberto esprimeremo la nostra considerazione. La mia considerazione, per esempio, è proprio quella che comunque secondo me il supporto, quindi il packaging, fa parte del gioco in quanto oggetto, e quindi la valenza storica per me è la medesima. Però è chiaro che ho notato che non tutti sono proprio completamente di questa opinione. Roberto? Beh, partiamo dal concetto che comunque siamo nell'epoca del digitale, quindi in questo momento la forma digitale è quella dominante. Ci sono giochi che, cioè, sono, io sono vecchio, sono cresciuto con le scatole, sono analogico, chiaramente, quindi. Esatto, certo, giusto, è vero. Chi è cresciuto nell'epoca del digitale comunque ha già una mentalità dove il digitale è il tutto. Quindi appunto sono giochi che escono solamente in digitale, digital delivery. Ci sono giochi che vivono solamente all'interno del proprio codice. Ecco, quindi l'orientamento, soprattutto negli anni futuri, sarà prevalentemente, per quanto ne penso, per questo tipo di conservazione. Vero è che, come giustamente ricordi, che anche la parte fisica ha altrettanto importanza, perché da una parte diventa parte dell'esperienza di gioco. Ritorno ai famosi manuali della Infocom, quei manualoni giganti che ti, sì, qualche volta, sì, introducevano nella storia. E dall'altro comunque ci racconta anche un po' di quello che era la cultura di quegli anni, nel senso, un certo tipo di grafica, un certo tipo di confezione, un certo tipo di presentarsi al fruttore, comunque ci racconta parte della nostra cultura. Esempio più stupido che viene in mente, le scatole dei videogiochi. Una volta c'era lo scatolone gigante, poi si è passati al semplice DVD case. Ecco, questo probabilmente cos'è? Un piegarsi alle leggi del mercato, quindi DVD case maggiormente stoccabili, occupano meno spazio, costano di meno, ci racconta un po' quella che è stata l'evoluzione del medium videogioco nel tempo. Se pensiamo, adesso apro anche un'altra piccola parentesi, alcuni progetti Kickstarter che stanno, in questi anni, stanno comunque diventando una parte importante dello sviluppo, spesso nelle ricompense più alte si parla di scatole. Quindi si torna un po' a quello che erano i vecchi pacchi, i vecchi modi di fare il videogioco, che sono proprio amati da chi il videogioco l'ha conosciuto dalle sue origini. Quindi diciamo che una risposta non è facile da dare. Diciamo che, se vogliamo una scala di urgenza, magari il codice è la parte fondamentale, perché ti permette di fruire perlomeno la parte di esperienza più interattiva. Però diciamo che un discorso più complessivo comprende entrambi i fattori. L'oggetto e l'insieme, certo. Sì, sì. Questo è chiaro. Va bene, allora andiamo alla seconda domanda. Tu hai ideato, e che poi noi abbiamo fatto, Giansandro Rosasco, che è il fondatore e direttore della Mecca. Che cos'è la Mecca? Lo spieghiamo dopo. Anzi, penso che prima Roberto fa la domanda, ascoltiamo la risposta e poi ne parliamo. Sì, la seconda domanda diciamo che va a ampliare un po' il discorso che abbiamo iniziato con Andrea, ovvero capire un po', ok, il concetto di preservazione l'abbiamo introdotto, ma cosa dobbiamo salvare? Quindi la domanda è: credi che tutti i giochi abbiano uguale diritto di preservazione, oppure sia necessario stilare una scala di urgenze? Possiamo parlare di videogiochi come opere d'arte, ma ho qualche dubbio sul termine preservazione, in quanto essendo software, quindi duplicabile e mantenendo le stesse caratteristiche di quello che possiamo chiamare master, non credo sia possibile applicare pedissequamente le medesime regole che valgono per le altre arti. Se comunque volessimo appoggiare questa, tra virgolette, scuola di pensiero, possiamo dire che è necessario stilare una scala d'urgenze, in quanto sicuramente è meglio salvare la Mona Lisa dei videogiochi piuttosto che un quadro di Dario Fo. Ma essendo l'arte molte volte soggettiva, la Mona Lisa è universalmente un capolavoro, così come molti altri giochi, è bene fare attenzione che il fornire una scala di priorità non porti a dimenticarsi qualcosa che magari potrebbe assumere importanza nel tempo, o che magari ha dato una svolta significativa, o ha lasciato un particolare segno, pur non essendo una vera e propria opera d'arte di massimo livello. Se tutti i giochi fossero rilasciati come freeware, Sicuramente una volta esaurito il loro interesse commerciale, ecco che la preservazione sarebbe possibile in forma migliore perché l'opera sarebbe maggiormente accessibile. Rimane un dilemma a mio avviso sulle scatole e sugli artwork, come i manifesti, le ruote antipirateria, le scatole e tutti gli ammonicoli che sono usciti con il gioco, soprattutto in passato. Anche questi fanno parte a mio avviso dell'opera d'arte, un po' come lo sfondo della Mona Lisa, appunto, fa parte del quadro, anche se tutti pensiamo subito alla sola protagonista. E forse tutti capisco che lo considerano niente più che un feticismo. Comunque per questo si potrebbe fare come si fa per i giornali registrati al tribunale, cioè depositare una copia presso una specie di conservatoria o un museo, come potrebbe essere ad esempio il nostro, la Mecca del videogioco. Questo per il bene della nostra amata arte videoludica e per far sì che niente vada perduto, nemmeno le cosiddette opere minori. Allora, grazie intanto a Gian Sandro per questa risposta, e partiamo subito dal primo aspetto: la Mecca, museo del videogioco. Tra l'altro molti di voi conosceranno sicuramente la Mecca, poi c'è stato anche un periodo in cui c'è stata anche una diatriba tra chi era il primo museo, so io, il primo museo sei tu, diatriba nella quale noi non entriamo, sebbene abbiamo probabilmente anche una forte posizione in merito. Museo del videogioco, quindi, dicevamo, che è appunto un approccio diametralmente opposto a quello dell'archivio videoludico, ma che appunto anche in questo caso c'è un aspetto di preservazione, c'è la formula del museo e c'è il mettere anche a disposizione di un pubblico un po' più generale l'opportunità di vedere cose e scoprire cose magari con un rapporto un po' più storiografico, più filologico, anche come tipo di narrazione, come succede spesso e volentieri nei musei. Roberto, qui ovviamente metteremo poi nelle note dell'episodio ovviamente quello che è il link al sito ufficiale della Mecca, e so insomma che tu più o meno insomma hai avuto modo insomma di approfondire anche questo tipo di discorso. Ne vogliamo parlare un pochino prima di andare poi nello specifico il discorso di Gian Sandro? Sì, credo che sia importante, anche perché appunto vorrei sottolineare la gentilezza in cui sono stati disponibili a rispondere alle nostre domande, anche magari con i nostri tempi un po' pressanti. La Mecca, cioè, che nel senso siamo dei rompiballe, di professione, però lo facciamo con discrezione, ma quando rompiamo le balle rompiamo, lo facciamo come si deve, ecco, quindi lo ringraziamo sicuramente. E la Mecca, fra l'altro, in questi giorni sta vivendo l'inizio del secondo livello, nel senso che è partito in un locale in cui un po' si erano organizzati per mettere a disposizione diverso materiale, ora stanno ampliando, quindi appunto l'invito penso che sia per chiunque sia dalle zone, ricordiamo che la Mecca è in Liguria, chiunque sia alle zone fare un giro. Peraltro sono molto gentili, nel senso che organizzano per chi si prenota anche un pranzo tutti insieme con cui condividere e scambiare un po' delle opinioni, quindi è un modo anche quello di vivere il videogioco come mezzo per incontrarsi, quindi nonostante quella può essere l'opinione comune che il videogioco tende a isolare, qua si mostra che magari si può avere anche approcci diversi. Sì, anche perché poi dopo, questo è un discorso che verrà dopo, scusa se ti interrompo, in realtà sebbene la preservazione del videogioco in quanto elemento conservabile è un discorso che deve richiedere un certo tipo di sensibilità anche dal punto di vista istituzionale, nel senso che deve cominciare ad avere il suo valore, la sua dignità vera e propria, è vero che per ora per chi fa questo tipo di discorso lo fa veramente con tutta la passione del mondo rispetto a quello che è la voglia, il desiderio di conservazione e soprattutto di divulgazione rispetto a questo, anche questo tipo di cultura della preservazione videoludica. Scusa, ti ho interrotto, però ci tenevo, perché comunque questo poi magari è un aspetto che magari tratteremo anche più avanti, però è importante perché dicete ok, loro organizzano, si fa la visita del museo e poi si pranza tutti insieme, è un modo comunque anche questo di mantenere una socializzazione rispetto a un aspetto che oltre ad essere impegnativo è sicuramente un impegno fatto con passione, quindi questo poi ricordiamolo e riconosciamoglielo come merito, perché non tutti hanno avuto questo approccio insomma. Quindi Roberto, ecco, lasciamo magari discorsi di carattere industriale, ecco, industriale, esatto, sì, questa considerazione. No, il discorso della Mecca è importante perché appunto mostra un po' l'altro lato, l'altra faccia della medaglia rispetto al discorso archivio, nel senso che la Mecca presenta, essendo appunto un museo, una conservazione più statica di quello che è il medio videogioco, nonostante comunque permettono di fruire o di provare alcuni titoli E peraltro all'interno di tutto quello che è il museo sono presenti anche numerosi libri o riviste, anche esse consultabili. E questo è importante perché comunque, come diciamo inizialmente, che il mondo preservazione è ampio, anche le riviste rientrano all'interno di questa considerazione. Certo, certo. Perché comunque raccontano un po' come si viveva il videogioco, un po' come quello, come è stato raccontato. Quindi non solo l'opera, ma anche chi l'ha come racconta. Abbiamo raccontato anche noi nella famosa puntata L'editoria videoludica ai tempi dei fosfori verdi, che io invito sempre ad andare a recuperare, perché forse dal punto di vista proprio dello spessore, dell'atmosfera, della sensazione anche empatica, insomma, probabilmente è una delle più belle puntate che siamo riusciti a mettere in piedi, e dando merito anche in questo caso a Roberto, che forse è una delle poche cose buone che ha fatto in questo programma. Scherzo, Roberto. No, tra l'altro vorrei ricordare che il titolo di quell'episodio non era mio, quindi probabilmente era... No, ecco, infatti la cosa più bella è quella che l'ho fatto io. E no, sul serio, comunque ripescatevelo, perché è veramente un grande episodio. Ma comunque andiamo, allora facciamo una cosa: visto e considerato che Gian Sandro ha fatto comunque un discorso organico che nell'insieme ha un capo, uno svolgimento e una fine, noi lo deframmentiamo il suo discorso in vari pezzettini, perché insomma anche per trovare spunti non tanto polemici quanto magari di riflessione, perché lui a un certo punto sostiene che il videogioco può essere un'opera d'arte, ma che non è così indispensabile la preservazione. Questo poi io l'ho considerato un po' un discorso forzato, perché lui sostiene che il software, essendo software, quindi essendo digitale, è già duplicabile, quindi di per sé non ha bisogno di una vera e propria preservazione, in quanto può essere duplicato svariate volte, e quindi di conseguenza potrebbe non smarrirsi mai. Io già su questo, insomma, Roberto, ci avrei un discorso, cioè nel senso, ci avrei già un'obiezione rispetto a questo tipo di discorso, soprattutto perché, come abbiamo detto anche prima, e questo non è detto che tutti la pensino alla stessa maniera, l'azione di conservazione in realtà dovrebbe andare verso l'oggetto nel suo insieme, giusto? Sì, diciamo che è un discorso che cammina un po' sul filo del rasoio. In pratica, se è vero che comunque il software è duplicabile, e quindi questo è sicuramente una delle forze che ha permesso ad alcune opere di arrivare fino ad oggi, o almeno nella sua parte di codice, è anche vero che non può prescindere da due elementi fondamentali. Uno è il supporto su cui questo software è in qualche modo appoggiato, quindi può essere la cartuccia, che può essere il CD, che può essere il DVD, comunque quello che è il supporto che rende la possibile la fruizione, e dall'altra parte anche il discorso dell'hardware, perché questo gioco tu puoi avere anche il codice, ma se non hai qualcosa su cui farlo girare, in qualche modo si rischia di non poter vivere l'esperienza. E anche se entriamo con un discorso di emulazione o quant'altro, sapete meglio di me che l'emulazione non rende sempre fedele un'esperienza fedele all'originale, anzi è appunto un'emulazione, quindi in qualche modo limitata da quello che è l'oggetto da emulare. Questo è un discorso, diciamo, che è comprensibile e ritengo importante, visto che comunque il codice è se vogliamo la radice dell'albero videogioco, quindi è le fondamenta da cui dopo tutto il resto viene. Però appunto si può considerare la radice, ma se non si considera il resto dell'albero si rischia di in qualche modo scindere il problema e non considerarlo in maniera completa. Anche perché, come abbiamo detto in tantissime occasioni e come hai detto te prima, per esempio le avventure testuali della Infocom, senza tutti gli oggettini che erano dentro al packaging, ovviamente si perde anche parte dell'esperienza, poi tutto sommato. Ovviamente questi poi sono casi unici, non è sempre così e non è sempre stato così nell'ambito del mondo dei videogiochi, però insomma in tante altre situazioni, anche come poi affronteremo dopo, già le copie protezioni, cioè le copie per esempio le protezioni antipirateria e vi dicendo, insomma poi alla fine in realtà in qualche maniera erano incastonate all'interno di quello che era l'ambientazione, il contesto dello scenario ovviamente del videogioco che poi si andava a considerare. E altro aspetto un po' particolare è quello delle scale delle priorità rispetto alla preservazione, cosa che mi ha lasciato un po' un dubbio, perché ovviamente si faceva il discorso, il rapporto con l'arte, se io non trovo un quadro di Leonardo da Vinci, chiaramente ha maggiore importanza rispetto magari a un quadro di un altro artista magari importante ma non della stessa caratura. Io penso che Già la ricerca non è detto che segua un aspetto di priorità, cioè nel senso la ricerca ti fa trovare quello che in realtà tu per strada riesci a trovare, e poi comunque il discorso delle priorità non è poi troppo soggettivo come approccio. E anche qua diciamo che personalmente ritengo che possono esserci diversi approcci. Parto da una considerazione di fondo che è un po' diciamo quella che mi ha portato negli anni a approfondire questo argomento. Diciamo che parliamo di un concetto che se vogliamo lo vediamo come consolidato, ok? Il videogioco può essere considerato una forma di arte. Questo ci aiuta, sebbene possano esserci critiche più o meno ampie, ci aiuta comunque a creare diciamo una base su cui partire col ragionamento. Ecco, diciamo che partendo dal discorso che un videogioco è arte, il definire cosa deve essere conservato e cosa no, diciamo che può essere un'arma a doppio taglio, nel senso che innanzitutto siamo in anni forse un po' troppo vicini a quelli in cui le opere sono uscite, quindi magari è difficile comprendere appieno quello che è il valore di un videogioco oggi, di un videogioco di 10 anni fa. Magari per noi può essere un gioco irrilevante, però se invece guardato sotto l'ottica di un'analisi storica, un'analisi di una serie di titoli che sono succeduti, può diventare fondamentale. Quindi diciamo che il discorso soggettivo rischia di essere in qualche modo penalizzante per alcune opere che magari meritano di essere conservate. E in seconda battuta si entra in un discorso appunto un po' troppo soggettivo, o meno si rischia di entrare in un discorso soggettivo, perché magari questi giochi LucasArts da tutti considerati fondamentali, quindi giochi mainstream, quindi quelli assolutamente devono essere conservati, quando magari un'avventura grafica un po' meno importante, un po' meno famosa ha degli spunti che sono molto più interessanti e magari anche il valore stesso del gioco è più alto di quello che è un gioco LucasArts. Aggiungo che ragionando in questo modo magari si rischia di dare un po' di fuoco alla paglia del collezionismo, nel senso che il collezionismo vive appunto di questa soggettività spesso, quindi tutto quello che sono, come diciamo prima, un po' i giri di denaro facile. Sì, anche se noi però dobbiamo distinguere un po' quella che è la preservazione in termini scientifici, tra virgolette, e quella, bravo, che è poi ovviamente la preservazione individuale dell'appassionato, del collezionista, così come poi accade anche nell'arte, perché poi questo è un discorso che anche secolarmente insomma abbiamo visto in per la pittura, insomma, gente che comunque collezionava quadri di Van Gogh dentro casa perché aveva i miliardi e se lo poteva permettere, quindi anche lì dopo c'era un giro dietro a livello speculativo, insomma gente ci guadagnava e robe del genere. Il grande valore dell'investimento è esporre un qualcosa che gli altri quando vengono a casa tua lo guardano e ne parlano, insomma. Poi in realtà è questo un discorso insomma che però non è questo insomma il tipo di preservazione che noi comunque, sulla quale ovviamente stiamo puntando l'attenzione rispetto a questa puntata, anche se comunque indirettamente ne fa parte, probabilmente molte cose sono state salvate anche grazie a queste situazioni. Comunque Gianandro Rosasco, che appunto dicevamo direttore e fondatore della Mecca, alla fine conclude il suo discorso ritornando, insomma chiudendo in realtà sull'oggetto videogioco, quindi in realtà poi torniamo a quello che era la visione insomma d'insieme che abbiamo già esposto anche in precedenza. Allora io quello che mi domando è quando e o se comunque questa visione d'insieme, quindi oggetto videogioco, quindi come abbiamo detto prima, packaging, parte digitale, parte anche storica, farà diventare ovviamente il discorso della preservazione videoludica una cosa seria, quindi non più un vezzo per appunto ultra appassionati come dicevamo prima. Beh, io credo che comunque la Mecca abbia un ruolo e un merito importantissimo, nel senso che il lavoro che sto portando avanti in questo momento è tutto un lavoro che permetterà col tempo di scindere quello che è il discorso prettamente collezionistico dal discorso scientifico, un po' quello che dicevi tu e accennavamo poco prima, nel senso che nel momento in cui queste due visioni col tempo si riusciranno a scindere, tanto più allora la preservazione diventerà un argomento serio, diventerà un argomento di studio e avrà delle basi, delle fondamenta, potrà anche magari essere riconosciuto a livelli istituzionali più alti, nel senso in questo momento abbiamo comunque un riconoscimento più locale che globale. Ecco, magari nel momento in cui riusciremo a scindere queste divisioni, e già Sandro secondo me questa cosa la sottolinea molto bene, nel momento in cui avremo queste divisioni distinte, allora veramente avremo fatto il passo in avanti. Quindi luoghi come la Mecca, luoghi come l'archivio in questo momento sono fondamentali, sebbene rimangano in qualche modo appunto penalizzati da quello che è il contesto generale, manca probabilmente una vera coscienza, e speriamo che la nostra puntata in qualche modo appunto serva per migliorare un po' la situazione, mettiamola un po' così. Perfetto, allora andiamo avanti. Rimaniamo però nella Mecca. Nella Mecca o alla Mecca, che tra l'altro sta in Liguria, quindi però probabilmente organizzeremo insomma una una bella gita insomma tutti quanti insieme, faremo magari un bello speciale anche video magari di archeologia videoludica rispetto a questa realtà, così come abbiamo fatto anche col 5885 quando c'è stata ovviamente la mostra espositiva a Roma. È giusto insomma riuscire poi in qualche maniera a documentare queste grandi realtà e l'importanza soprattutto che esse poi alla fine racchiudono nel lavoro che fanno. Allora, Michela De Rosa, che anche lei è una è la fondatrice del museo ed è anche la curatrice, ci risponde a quella che è la terza domanda che tu hai elaborato e che ti lascio ovviamente l'onere e l'onore di esporre. Sì, in pratica stiamo cercando di entrare sempre più nello specifico, quindi la domanda in questo caso è stata un po' rivolta a un discorso più ampio, quindi cercando di approfondire cosa succede quando un gioco passa del tempo, quindi magari non ha più interesse commerciale, cosa succede? Quindi la domanda che abbiamo fatto è questa: cosa ne pensi del rilascio dei giochi come freeware, quindi diventano liberated, una volta esaurito il loro interesse commerciale? E appunto un esempio che gli abbiamo lasciato era un po' quello di Revolution Games, con diversi titoli che in qualche modo sono stati liberati. Innanzitutto andrebbe aperta una parentesi sul tema interesse commerciale. Credo che più passeranno gli anni, più crescerà l'interesse per le opere videoludiche del passato, così come già succede in tutte le altre arti, ma anche nell'intrattenimento. Basta accendere la TV per capire che i bambini di oggi guardano gli stessi cartoni animati di 30 anni fa e che le serie TV, così come i film, vengono replicate all'infinito, catturando quindi sia l'interesse di chi li rivede volentieri, sia chi li scopre per la prima volta, creando quindi sempre dei nuovi target. In secondo luogo, non va confusa la preservazione con la disponibilità. Il freeware rende il file di gioco disponibile, mentre un museo preserva l'oggetto gioco, considerando sia gli elementi fisici, quindi scatola, gadget, poster, eccetera, eccetera, sia però anche gli approfondimenti, quindi la ricerca su quel particolare videogioco, la storia dell'azienda, sugli sviluppatori, delle particolari curiosità. E quindi sarebbe un po' come paragonare un MP3 al Museo della Musica. Sono due utilizzi e due obiettivi molto differenti. Io subito entro a gamba tesa, così proprio perché intanto ringraziamo chiaramente Michela, perché è stata molto molto esplicita, molto eloquente, insomma, quindi ha fatto un discorso estremamente ben strutturato. Però quello che mi domando io, perché poi qui c'ho la mia è un po' più una perplessità, ma più una curiosità, perché poi in realtà in effetti non ho modo adesso di documentare, che io non vedo la televisione generalista soprattutto da parecchio tempo. Però dico, al di là del fatto insomma della ricerca storica, quindi il tentativo di storicizzare e comunque sempre più evidente la sempre più evidente attenzione verso la moda del vintage, è vero secondo te che noi, i nostri, che ne so, i ragazzi di oggi vedono le cose che vedevamo noi 30 anni fa? Io non sono tanto convinto di questa cosa. Cioè, nel senso che ci sia un ritorno, un'attenzione, ma che magari i ragazzini oggi vedono gli stessi cartoni animati che vedevamo noi allora, non sono proprio tanto convinto di questa cosa. No, prima di rispondere, permettimi di ringraziare Michela personalmente, nel senso che ero un po' dubbioso perché è timida appunto nel rispondere alla nostra domanda. No, è stata bravissima. Ma è stata convincente, no. Veramente, quindi un ringraziamento di cuore, questo mi sembra un doveroso premessa, ecco. E poi è stata anche più brava di Gian Sandro, diciamo, dai, su. Sì, vabbè, chiaramente la parte femminile si nota che ha maggiore competenza e la capacità di esporre il tema, a parte gli scherzi. Ah, no, anche perché poi sdoganiamo la sta cosa, no? Che le donne, bene. Appunto, infatti, questo è giusto un aspetto a sottolineare, il fatto che Michela, una ragazza, udito udite, interessata ai videogiochi e ne parla con competenza, quindi... Competenza e ovviamente fa la curatrice del museo, quindi vuol dire che, vedi, cioè nel senso... perché insomma altrimenti penso che il museo, in quanto a prestigio magari e a esistenza, sarebbe durato all'oggi a domani se non fosse così, insomma. Ok, so che Gian Sandro ti cercava proprio l'indirizzo, quindi magari sentivi... Esatto, sì, se lo so. Vabbè, vieni tranquillo. Sì, se tornando un po' al discorso appunto della moda del vintage, nel senso che ti dico, a volte penso che l'attenzione per i giochi di 30 anni fa o di fine di 30 anni fa sia più di chi 30 anni fa già li guardava che magari dei bambini di adesso. O meglio, ci sono alcuni grandi classici, penso a Holly e Benji, penso un Mille Shiro, penso a Lupin, che magari si effettivamente vengono ancora proposti. Però lo scarto generazionale, secondo me, in alcuni casi è più importante, nel senso che se messi davanti ai videogiochi di allora, probabilmente i bambini apprezzano ancora oggi. Ed effettivamente. No, perché se fanno Mille Shiro da qualche parte, dimmelo, io me lo guardo subito, cioè senza problemi. Mille Shiro non lo so, Holly e Benji so che ciclicamente è riproposto tempo fa. Vabbè, Holly e Benji non è una cosa di 30 anni fa. Cioè, no, 30 anni fa. Ho 5 anni io quando c'ero Holly e Benji. Ho 5 anni io, ne ho 31 adesso, 26, cioè nel senso che siamo lì. Insomma, sì. Sei vecchio, caro. Ascolta. Hai ragione. Ricordami di mandarti il tuo bastone che hai lasciato qua a casa. È vero, anche gli occhiali, ecco. No, quindi diciamo che il discorso mi sembra fruette forzato, o meglio, è la visione giusta, ma per chi appunto quegli anni ha già vissuto. I bambini oggi devono essere messi davanti a questi prodotti e probabilmente li apprezzeranno, come chi magari si trova adesso a giocare giochi degli anni 90, degli anni 80, riesce a apprezzarli ancora oggi. Infatti lo gaming comunque in qualche modo è una moda o comunque un movimento che sta diffondendo, però diciamo che non so quanto. Sì, in taluni casi è molto una moda anche. Ecco, non so quanto appunto ci sia un'esigenza storica, quanto appunto diventa una moda, nel senso che purtroppo non c'è, penso, temo che non ci sia ancora questa coscienza così spinta verso la conservazione per quello che è. E non tanto per modo dire che fa figo dire che ho il Nintendo 64 originale, ecco. Io mi sono reso conto, questo non c'entra niente, anche ringraziando e salutando Gianluca Santilio, che come abbiamo già detto, insomma, abbiamo avuto l'opportunità prima di chiedergli di entrare nel nostro team, anche di vedere il suo canale, che è vero che probabilmente è difficile la preservazione in quanto tale, cioè nel senso proprio nel senso più strettamente fisico, ma è vero pure che c'è però da un'altra parte un'esigenza di storicizzazione, cioè nel senso che c'è, è veramente c'è una spaccatura in due, cioè chi per moda comunque gioca il retro gaming e c'è chi invece per necessità, anche bisogno, come diceva tante volte ha detto anche Luigi Marrone, siamo un po' animali temporali, cerchiamo poi in realtà di dare un senso, una storia un po' a tutto quello che è il nostro passato. Quindi questo è un po' il bene, perché poi alla fine, ecco, anche su YouTube si vedono anche youtuber magari che fanno cose simpatiche, divertenti o roba del genere, però c'è anche chi comunque dà un'impronta narrativa storica a quelli che poi sono questi prodotti. Insomma, quindi diciamo che quello che poi noi vogliamo fare con Archeologia Videoludica, tra l'altro, è proprio quello di approfondire oltremodo quello che magari su YouTube è un po' più difficile approfondire, perché poi la gente, sai, un video più di 15 minuti si rompe un po' le balle, probabilmente succede anche con un podcast, però insomma. Infatti abbiamo perso però tutti gli ascoltatori circa 10 minuti fa, però esatto, sì, solo per sentire sto pippardone. Comunque, ritornando a Michela, anche qui rientra un po' il discorso, anzi rientra, diciamo, ci ritroviamo nuovamente al discorso dell'oggetto videogioco, cioè nel senso nell'insieme, quindi penso che oramai quasi a maggioranza, insomma, siamo d'accordo che l'elemento da conservare non è soltanto l'elemento fondante, quindi quello che dicevi te, ovviamente, ossia la radice del videogioco, la rappresentazione del videogioco stesso, ma ovviamente un po' tutto quello che il videogioco rappresenta, che possono essere, ecco, poi lo allarghiamo, visto e considerato che loro ovviamente alla Mecca hanno anche le riviste, possono essere sia le recensioni che la scatola che la pubblicità che c'è stata dietro e tutto quanto, insomma, quindi concordiamo, no, oramai in maniera definitiva su sto discorso qui. Sì, peraltro penso che, cioè, facendo un ragionamento adesso al volo, un po' ascoltando le risposte che hanno dato, penso non sia neanche un caso che sia Gian Sandro che Michela abbiano concluso citando l'oggetto videogioco nel suo complesso. Penso che sia anche magari una diretta conseguenza di chi il videogioco lo vive tutti i giorni all'interno di un museo, quindi lo vede fisicamente davanti a sé, quindi ne tocca la fisicità, ne vive la fisicità, e quindi probabilmente alla fine è qualcosa che ti entra, qualcosa che in qualche modo ti è naturale pensare come videogioco, come complesso di cose. Se non avrebbero fatto un museo virtuale, diciamocelo, quindi. No, vabbè, è chiaro che secondo me è una concorde politica del museo stesso, cioè nel senso che comunque loro nell'approccio ovviamente dello studio del museo stesso sono sicuramente trovati d'accordo da questo punto di vista, ma poi poi è, insomma, diciamo, quasi difficile contestarlo come tipo di discorso, perché è chiaro, insomma, che tu quando porti in storicizzazione, porti al racconto storico un qualsiasi cosa, lo porti nel suo insieme, quindi non è, può essere soltanto la singolarità, perché poi purtroppo, ecco, ho detto, tante cose sono fatte di tanti elementi, ma anche un che ne so, un film può essere così anche per il film, chiaramente non è soltanto ovviamente la videocassetta o il DVD dove è stato inciso o la pellicola, ma magari il tipo di stampa che è stata fatta, oppure il tipo di locandina che è stata fatta a suo tempo per la pubblicizzazione di cinema. Quindi, insomma, questo è l'aspetto, penso, abbastanza fondamentale. Dunque, a questo punto, però diciamo una cosa, che e ti faccio i complimenti, ci facciamo i complimenti un po' da soli, tanto ci fa piacere, diamoci le pacche sulle spalle. Tre personaggioni, insomma, dell'ambiente videoludico, e le altre tre domande che rimangono non so da meno, cioè, nel senso che veramente abbiamo tirato fuori delle grandi guest star, insomma, ringraziamo tutti, ovviamente, poi alla fine faremo i saluti finali senza meno. E in questo caso abbiamo fatto la quarta domanda a Simone Akira Trimarchi, che è, insomma, personaggio abbastanza noto nella rete e non soltanto, Roberto. Sì, diciamo che, allora, innanzitutto, scusatemi se mi ripeto, ma vorrei appunto ringraziare ancora Simone per la sua disponibilità. Anche lui, nonostante le rotture di balle, le esigenze, le tempistiche ridotte, come citavo anche prima, appunto è stato gentilissimo e ci ha dato una risposta che poi ha mostrato diversi argomenti interessanti. Poi adesso magari ci entriamo. E poi Simone, diciamo che è una personalità perché rivede la duplice anima di videogiocatore, nel senso che è stato un giornalista, è un conduttore televisivo, è stato anche un videogiocatore professionista, quindi uno dei pochi campioni italiani che in qualche modo si sono fatti valere sulla scena internazionale, quindi diciamo che ci permette comunque di spaziare su diversi ambiti, su diverse esperienze, quindi questo è un discorso importantissimo. E poi dimmi, Simone, vuoi dire qualcosa? No, vai. E poi con lui, diciamo che abbiamo avuto la fortuna, la possibilità di approfondire un discorso che, diciamo, che non ti convinceva molto, diciamocelo inizialmente, almeno non ti, come domanda non ti convinceva molto, ma che penso che possa essere interessante, anche perché è un concetto poco considerato. No, ci arriviamo infatti a questa cosa. Beh, intanto metteremo nelle note dell'episodio Inside the Game, che chiaramente è il sito che Simone gestisce, insomma, insieme a altri collaboratori, dove si parla ovviamente di videogiochi e ovviamente poco di retro gaming, come lui stesso, insomma, ci ha tenuto a specificare in separata sede, però ovviamente chi è interessato comunque il videogioco nell'insieme, anche, insomma, per quanto riguarda questioni più moderne, è abbastanza da tenere d'occhio. Ovviamente l'abbiamo messo, io subito schiaffato tra i preferiti. La domanda però ha bisogno di una piccola premessa, nel senso che perché sennò giustamente messa lì così si rischia la reazione data, che cazzo è stata domanda, che dice cosa cavolo, che domanda è, alla fine è colpa mia, è chiaro. Diciamo che io sono partito dal concetto della difficoltà di poter permettere un'esperienza nel tempo, nel senso che se pensiamo alle avventure testuali, bene o male, oggi, 20 anni fa, 30 anni fa, sostanzialmente l'esperienza, nonostante tu lo utilizzi su un computer, su un palmare o quant'altro, non cambia, perché pur essendoci interazione di fondo, diciamo, non c'era un contesto particolare. Sto togliendo chiaramente in questo caso tutto quello che è discorso packaging eccetera eccetera, che abbiamo già affrontato. Il videogioco è già più complicato, nel senso che basta un ritardo nelle risposte, basta una grafica un po' diversa, quant'altro, si perde parte dell'esperienza completa. Esiste un'altra area dei videogiochi, che sono i giochi di MMORPG, esistono altre aree dei videogiochi che sono gli MMORPG, ovvero i giochi di ruolo online, che in qualche modo sono ancora più difficili da conservare o comunque da preservare, perché sono contestuali a quello che è il momento stesso, le persone con cui trovi, con chi interagisci, sono tutti elementi che fondamentali per l'esperienza, ma che non possono durare nel tempo, non possono essere replicati. E quindi la domanda è stata in che modo il problema può interessare appunto questo tipo di giochi, titoli per loro natura dinamici e sempre diversi rispetto a se stessi. Allora, la domanda è proprio interessante, direi, e l'argomento poi dà modo, secondo me, di approfondire tanti aspetti, non solo relativi alla preservazione videoludica, ma anche di natura, insomma, fenomenologica, su quello che poi sono questi mondi virtuali persistenti, quelli appunto in cui si svolgono le campagne dei Massive Multiplayer Online Role Playing Game. E una cosa che mi ha sempre incuriosito e mi lascia, ecco, riflettere, mi fa riflettere, è il tema delle, se ci pensate, città fantasma. Leggevo poco tempo fa su Facebook, è girato un link molto molto interessante con le foto dei 20 luoghi abbandonati più belli, insomma, del mondo. Questi luoghi, tra l'altro, andavano da una statua di Gesù in fondo al mare, o a un albergo ormai distrutto in una, insomma, grande città statunitense, e così via. Però erano tutti luoghi in cui l'uomo non mette piede da molto molto tempo, e al di là del fatto che le foto esaltavano, insomma, le ambientazioni di cui appunto si parlava, perché erano delle bellissime foto, mi fa riflettere questa cosa, appunto, del qualcosa che è abbandonato a se stesso, come si evolve. Allora, per quanto riguarda la natura, chiaramente crescono delle erbacce e insomma, lo scenario cambia, muta, si deteriora, piuttosto che si abbellisce, a seconda, insomma, dei punti di vista e a seconda di quello che succede. Per quanto riguarda i mondi persistenti, pensateci. Allora, molti vengono chiusi, no? Poco prima, probabilmente, che gli utenti li abbandonassero del tutto, perché se vengono chiusi non generano più quel flusso economico tale che da mantenere quantomeno vivi i server. E molti altri invece, i casi sono più unici che rari, vengono comunque lasciati aperti, e anche se ci sono pochissimi giocatori. Ah, un altro caso ancora sono quelli dei server non ufficiali. Ecco, se non ci fosse questo problema del costo dei server per una software house, sarebbe interessante fare un esperimento e quindi abbandonare a se stesso il mondo persistente, con tutti gli animali piuttosto che le cose scriptate che ci sono, e osservarlo da fuori, o osservarlo poi a distanza di anni. Io credo che la fotografia che se ne avrebbe rispetto poi a quello che è, insomma, quello che tutti in mente abbiamo, l'aspetto sociale, quindi stiamo parlando di mondi, anche Second Life, che eppure non era un videogioco, comunque, dove si incontra la gente, vivi, ecco, vividi anche, e probabilmente il fatto di lasciarli su un server a macinare dati senza persone darebbe, secondo me, risultati sorprendenti. Magari anche lì andrebbero fatte delle foto in particolari situazioni, non lo so, col cinghiale che dà XP, che finalmente il suo script l'ha portato vicino a una città, e quindi in una particolare situazione in cui non doveva esserci, e così via. Mi allaccio a questo per rispondere appunto alla domanda. Sicuramente il tema della preservazione videoludica su progetti, su prodotti del genere è forse meno, secondo me, rilevante, meno un problema rispetto al videogioco di anni fa, di cui ormai si sono andate distrutte tutte le copie e che è rimasto solo negli archivi, e bisogna stare attenti veramente a preservarlo. Probabilmente il fatto che della gente abbia vissuto in questi mondi virtuali persistenti fa sì che che vengano comunque sia ricordati in maniera più forte. Ci saranno anche delle foto, dei video, per esempio YouTube da questo punto di vista fa un insomma un grandissimo specchio di quelli che sono i mondi degli MMORPG, perché lì gli utenti caricano i loro video di balli, i loro video di come hanno sconfitto il mostro dal letale, quindi comunque sia il prodotto non verrebbe proprio eliminato, quantomeno dai ricordi non videoludici, non interattivi delle persone, ma rimarrebbe comunque in video. E inoltre credo che essendo degli applicativi che girano server side e client side, i programmatori, gli sviluppatori, piuttosto che i produttori di questo tipo di videogiochi, sicuramente avranno delle copie quantomeno del server che magari in un attimo possono riaccendersi e quindi far rivivere per un momento quel mondo. E essendoci i client che sono solo dei file scaricabili, molto spesso mi sembra difficile che si perdano che si perda proprio il prodotto, che si perda comunque sia l'esperienza se uno la volesse rifare. Il problema vero poi da questo punto di vista è quello che accennavo inizialmente, quindi il fatto che questo tipo di videogiochi creano una profondissima esperienza non solo ludica ma anche sociale, e quella probabilmente, quelle meccaniche da un certo punto di vista probabilmente andrebbero preservate più del pezzo di software stesso. Perché? Perché io credo che quello che si è sviluppato all'interno di World of Warcraft, piuttosto che all'interno di Guild Wars, piuttosto che insomma all'interno di altri prodotti, a livello di interazioni, quindi l'organizzazione delle gilde piuttosto che dei raid e il PvP e quant'altro, sia veramente un pezzo di storia del videogioco, nonostante invece poi di videogioco effettivamente non si tratti, è più storia delle persone che l'hanno giocato. E qui il sottilissimo insomma legame tra giocatore e attore e spettatore dell'esperienza videoludica si fonde secondo me ancora di più piuttosto che nei videogiochi single player, perché lì veramente non si costruiscono solamente esperienze di gioco ma anche un po' esperienze collettive. E quindi io credo, ripeto, che ci vorrebbe magari, ecco, come ho detto prima ci sono i video su YouTube quindi non mi devo preoccupare, però ci vorrebbe qualcosa che conservasse il ricordo di come sono andati i fatti all'interno di questi mondi virtuali, soprattutto perché questi mondi virtuali hanno una storia, hanno delle caratteristiche che sono sempre in cambiamento, le patch e quant'altro, quindi com'era prima, com'era dopo e così via. Però ripeto, la cosa che più mi affascina sarebbe vedere World of Warcraft vivo tra 50 anni ma senza nessuno che ci gioca dentro, vedere com'è quel mondo, magari tornarci e scoprire che tutto è cambiato in qualche modo. Allora, intanto, come ha detto Roberto, io ringraziamo Simone prima di tutto. Come ha detto Roberto prima, ero un po' perplesso su questa domanda, perché non riuscivo a capire in che senso un MMORPG potesse poi contribuire al discorso della preservazione videoludica, che tra l'altro Simone fa un discorso prendendolo veramente molto molto alla larga. Però è un approccio molto esotico ed interessante, perché è comunque uno spunto di riflessione, perché fa una sorta di parallelismo tra i mondi abbandonati della realtà. Se quindi lui fa appunto l'esempio dei 7-10 posti fotografati abbandonati più belli del mondo, che erano apparsi su Facebook recentemente, e lo stesso tipo di discorso magari in un eventuale mondo virtuale digitale magari lasciato in essere senza che però nessuno c'è più andato, che ne so, per 10, 20 anni, 30 anni, chissà che non so in che maniera Roberto questa sua parte di risposta contribuisce al concetto, però in realtà è stato stimolante come spunto anche solo l'ascolto. Veramente, cioè, nel senso, è un qualcosa che non mi aspettavo, ma che però credo che abbia colto probabilmente a pieno quello che era tutto quello che era il contesto della domanda. Perché effettivamente questi mondi virtuali, questi mondi che vengono creati continuamente e continuano a cambiare, a un certo punto della loro vita vengono abbandonati. Vengono abbandonati perché non ci sono più soldi, i server non vengono più mantenuti, non ci sono più giocatori, cioè tutta una serie di cause, di conseguenze. Però questi mondi sono comunque, per chi li ha vissuti, no, dei luoghi reali in cui qualcuno è stato e qualcuno può raccontare delle esperienze, delle avventure, magari una famosa quest in cui insieme ad altri 5 amici hanno visto quel famoso drago sotto la grotta, in contesti particolari. Ecco, sono veramente mondi abbandonati, quindi è affascinante questo parallelismo, in quanto l'esperienza della vita quotidiana in qualche modo si interfaccia anche con l'esperienza della vita digitale. Quindi credo che devo ringraziare Simone perché ha aggiunto uno spunto a quello che un po' era il contesto iniziale della domanda, ma uno spunto molto pertinente, e credo che permetterà agli ascoltatori di fare diverse riflessioni e probabilmente anche di ritrovarsi un po' in quello che diceva. Sì, infatti, poi dopo infatti tu immagini, chissà se il mondo, un server lasciato lì attivo, se il mondo al suo interno, dopo che nessuno ci va, dopo tanto tempo si è inselvatichito, come probabilmente succederebbe nella realtà. Ma il secondo spunto veramente interessante che dà Simone a questa discussione è quello relativo al discorso che ha fatto su YouTube, e mi ha fatto venire ovviamente in mente una sorta di parallelismo, cioè nel senso, lui dice, non è la preservazione, non è soltanto conservare l'oggetto, ma anche conservare quello che l'esperienza ha lasciato negli altri, quindi in qualche maniera, appunto, che ne so, i vari raid, il modo in cui hai distrutto magari quel determinato mostro o tutta una serie di determinate cose che tu puoi comunque registrare, riprendere e poi stoccare chiaramente in YouTube, e YouTube diventa una sorta di istituto luce dell'esperienza videoludica, non una conservazione dell'oggetto in quanto tale, ma la documentazione, quindi l'esperienza documentaristica, quasi un po' come se fossero i documentari di guerra, no? Le pellicole che raccontavano quello che è stato magari quel tipo di esperienza storica lì. Quindi alla fine anche YouTube contribuisce a una storicizzazione del videogioco. Ecco, sai che magari non ci crederai, però mentre parlavi ho avuto anche io la stessa immagine dell'Istituto Luce. Adesso, precisa, identica cosa. Questo perché appunto il discorso di YouTube, che è il mezzo tramite il quale adesso comunque il mondo condivide i video, racconta un po' una parte importante del videogioco, quindi non il gioco esperienza personale, ma il gioco raccontato di chi quel videogioco l'ha vissuto. E probabilmente per questo tipo di giochi è, da una parte, penso, uno dei metodi di fruizione, o meglio di racconto, di preservazione fondamentali, nel senso che diventa difficile effettivamente preservare nel tempo alcuni server. Fra le varie idee che mi erano venute, non ti nascondo, c'era quella di creare dei server, diciamo degli host temporanei, che una volta all'anno permettevano, per ne so, una settimana, due settimane, un mese, di riprendere quel gioco e di farlo rivivere, in modo tale che in qualche modo l'esperienza potesse essere perpetuata nel tempo. Però è anche vero che non è difficile in qualche modo cogliere veramente l'essenza di questo tipo di giochi in questo modo, mentre con YouTube si può avere l'impressione di essere ancora veramente lì, quindi di rivivere delle esperienze personali. E se magari i filmati di un gioco in single player ti raccontano un po' come il gioco, qua si raccontano un po' quelle che sono le vite. E quindi penso sia veramente un concetto interessante, e penso che valga la pena anche approfondirlo, questo sicuramente. Anche se però, a differenza della realtà, i server, nel momento in cui vengono staccati, magari viene bloccato tutto, c'è una sorta di congelamento dell'esperienza nell'istantanea momento in cui probabilmente il tutto viene terminato, quindi c'è una sorta di preservazione, congelamento anche in quel senso. Questo però ovviamente in maniera completamente diversa e sicuramente affascinante, per certi versi sarebbe bello una volta veramente farne una bella discussione, magari perché no, su dietrologia videoludica. Quindi praticamente secondo te cioè, nel senso, la preservazione fondamentale che ci lasciano gli MMORPG sono l'esperienza, cioè sia personale che sociale, cioè l'esperienza vissuta. Probabilmente, nel senso che comunque è una risposta difficile, lo confesso, sebbene abbia ideato io la domanda, però così almeno mi lavo un po' le mani e sono tutti contenti. Esatto, questo è Pizzi insegna e Bertoni impara. Impara, è giusto. È giusto. Diciamo che per questo tipo di giochi probabilmente la parte di preservazione più importante è quella sociale, quindi le interazioni che il gioco ha saputo creare e come queste interazioni sono state favorite da un gioco rispetto a un altro. E se pensiamo ad esempio a un fenomeno di culto di massa come World of Warcraft, che negli anni continua a mantenere un numero di giocatori nell'ordine di milioni, potete ben capire che appunto il discorso di interazione sociale è importante. Di contro, diciamo, questo è l'altro lato della medaglia, e che probabilmente è un discorso un po' più delicato, il rischio è che questo fenomeno sociale diventi parte fondamentale, parte fondante che della vita di una persona normale, quindi persone che riversano tutta la propria vita in questo tipo di giochi, escludendo così i legami sociali e quant'altro, e quindi in quel momento magari il videogioco perde un po' quello che è anche il suo obiettivo di preservazione o comunque di racconto, e diventa più un qualcosa di morboso, se vogliamo, il discorso virtuale del collezionismo di prima, ecco. Perfetto, quindi per Simone Trimarchi fondamentalmente la storia di chi ha giocato è molto più importante anche del gioco stesso, e in un certo senso la preservazione tramite filmati o tramite qualsiasi tipo di altro mezzo, poi in realtà di quel tipo di esperienza, è anche questo un contributo alla preservazione del videogioco in sé. Noi lo ringraziamo, io veramente lo ringrazio tantissimo, perché senza togliere niente agli altri chiaramente, ma ha preso, diciamo, la discussione dal lato destro, cioè nel senso si è spostato di lato, insomma, è andato nella porta di dietro, insomma, quindi ha fatto veramente un giro che in qualche maniera mi ha affascinato, perché ha fatto un viaggio che è stato veramente interessante. Ricordiamo, Inside the Game ovviamente è il sito, note sull'episodio, quindi lo potete andare tranquillamente a spulciare, e ringraziamolo. Ovviamente passiamo alla domanda numero 5, che è una domanda che abbiamo fatto a un mostro sacro per me, perché non è soltanto un elemento fondamentale di archeologia informatica, ma è anche un uomo che ha attraversato in maniera importante la storia dell'editoria videoludica e informatica in questo paese, che è appunto Carlo Sant'Agostino, che con il suo desiderio di puntualizzare, insomma, risponde in maniera diametralmente opposta a Simone, cioè nel senso, in una maniera molto concisa, precisa e molto anche tecnica, tra virgolette. Insomma, diciamo che appunto Carlo è sicuramente una delle colonne nel panorama dei videogiochi, soprattutto partendo dagli albori, quindi fare questa domanda che fra poco leggerò a lui è doppiamente importante, sicuramente perché dal lato ha una conoscenza del mezzo che è superiore, personalmente credo sicuramente alla mia, e anche numerosi, quelli che possono essere quella degli ascoltatori, quindi è un'esperienza che comprende il fenomeno videogioco in maniera globale. E secondo me tutto perché, proveniendo un po' da quello che sono gli albori, ha visto anche il videogioco nelle sue varie forme, quindi magari ha più coscienza di quello che è l'oggetto videogioco a 360 gradi. Quindi la domanda è stata se un'eventuale preservazione dovrebbe privilegiare la componente statica, quindi il packaging, oppure quella dinamica, il giocato. E quindi sentiamo un po' cosa ci risponde. Rispondiamo, cerchiamo di rispondere brevemente alla domanda, anche se per me è difficile. Cercherò di essere conciso. La risposta è abbastanza semplice, in definitiva. Tutto il possibile va preservato. Però questa risposta, nella sua semplicità, richiede una spiegazione per capirla bene. Cercherò di esporre in maniera più semplice possibile. La preservazione di un qualsiasi manufatto che abbia una rilevanza storica, non sto parlando quindi solo del videogioco, è importante in ogni aspetto. In un mondo ideale, un archeologo, uno storico, un appassionato desidera poter studiare l'oggetto del suo interesse in tutti i suoi dettagli. Questo perché l'oggetto stesso descrive indirettamente il mondo, l'epoca che lo ha prodotto tramite i suoi dettagli, che siano il materiale di cui è fatto, o il colore, o qualsiasi altra cosa. È ovvio che nel mondo reale è impossibile conservare tutto di tutto, qualcosa si perderà sempre, metti anche soltanto lo spazio per la conservazione di un tutto ideale fisico sarebbe un problema, ma l'informatica in questo senso ci aiuta, perché conservando il contenuto digitalmente, cioè digitalizzando tutto quello che è di origine analogica, o oppure conservandolo perché era già digitale. In questo senso il videogioco vero e proprio nasce digitale, ma il packaging, il manuale, gli accessori vivono nel mondo analogico, però possono essere digitalizzati preservandone l'informazione che ne permetterà la sua riproduzione o il suo studio. Questo sia per poter dare la possibilità di studiare l'oggetto, se questo è raro o delicato, sempre non parlando solo del videogioco, sia per conservare il più possibile dell'informazione originale, perché anche in mancanza dell'oggetto fisico, per qualsiasi motivo, io posso comunque accedere a un'informazione che non esiste più. In questo senso la conservazione è non solo dell'oggetto di per sé stesso, ma tutto di quello che ne permette il funzionamento. Nel caso specifico del videogioco rientra anche questo nella conservazione, cioè le informazioni complete della macchina che permette il funzionamento del videogioco, computer o console che sia, per poterne riprodurre con l'emulazione oppure la ricostruzione stessa della macchina l'esperienza diretta che si aveva nel tempo della sua ideazione. Spero di essermi spiegato senza aver complicato troppo la mia spiegazione contorta. Ciao. Per Carlo Sant'Agostino, e qui vorrei poi fare un piccolissimo, un brevissimo inciso, tutto va preservato, perché comunque in senso generale l'uomo ha volontariamente o meno lasciato sempre traccia di sé, quindi preservato appunto involontariamente o meno elementi fondamentali della sua storia, e questo ha permesso ad altri uomini dopo di poter ricostruire la storia, le abitudini e comportamenti, fenomeni, eventi e fatti anche nello specifico. Una cosa importante, perché quando Carlo dice tutto va preservato, mi viene sempre in mente il film che doveva essere di Kubrick, ma poi alla fine non lo è stato per ovvie ragioni, Intelligenza Artificiale, quando c'è il momento in cui passano i millenni, si ghiaccia tutto e arrivano gli alieni, gli archeologi alieni che scavano praticamente nei ghiacci per cercare storia della civiltà che era su quel pianeta, ossia il nostro pianeta. Forse l'unica cosa che veramente mi è piaciuta di quel film, perché poi in realtà mi viene in mente il fatto che è inevitabile, no? Che tutto possa venire preservato proprio per una necessità non soltanto nostra insita, ma proprio per il fatto che comunque è sempre, ci sarà sempre qualcuno domani che scaverà e racconterà la nostra storia anche tramite i videogiochi, probabilmente. Beh, consideriamo anche che appunto tutto quello che viene fatto fondamentalmente, poi credo ci sono delle eccezioni, per durare, quindi in qualche modo ha in sé il seme della preservazione. Poi entra in discrezionalità, nel senso qualcosa viene più conservato, qualcosa viene meno conservato. Vero è che è sempre fondamentale, quindi qualsiasi elemento può in qualche modo raccontare qualcosa di noi. Sta a noi probabilmente decidere che faccia del nostro passato, del nostro presente vogliamo lasciare a chi verrà dopo. Quindi in questo senso il videogioco, e qua torniamo un po' allo scopo della puntata, crediamo che sia parte fondante della nostra cultura attuale, quindi crediamo che valga la pena in qualche modo attivarsi. Ovviamente se tutto va conservato e tutto poi andrà studiato, qualcosa secondo Carlo si perderà sempre, perché è impossibile riuscire a conservare tutto, non soltanto per una questione di cose che si possono smarrire, anche per una questione fisica, poiché tutto non può essere stoccato fisicamente, non esiste probabilmente spazio sufficiente per farlo. E a questo punto poi, tra l'altro, io mi ricollegherei anche allo spunto successivo, così almeno lo raggruppiamo. A questo punto la digitalizzazione ci viene incontro, perché la digitalizzazione in realtà ci permette di conservare magari non l'oggetto in quanto tale nella sua fisicità, ma tutto l'elemento relativo alla sua informazione. Beh, in qualche modo era un concetto che adesso mi sembra ricordare e non vorrei fare troppe gaffe, in qualche modo esprimeva anche Andrea nella sua prima risposta, nel senso che auspicava che nel tempo nascano comunque più archivi, questo perché appunto un unico archivio non può conservare tutto, quindi se magari si vengono a creare più realtà, diverse realtà che in qualche modo si occupano di preservare il videogioco, è più facile che una determinata opera sopravviva al tempo. sia appunto perché magari c'è da una parte e non c'è dall'altra, sia perché più coppie magari permettono più probabilità che in qualche modo si arrivi al futuro. Questa è una parte. Dall'altra il discorso di digitalizzazione, in questo senso penso agli store digitali come Steam, Zodiac, Google Games, ecco, questi stanno facendo un grosso lavoro, perché da una parte appunto digitalizzano gran parte quello che è il videogioco, magari aiutando a ricomporre quello che è anche il packaging in qualche modo. Penso anche ad esempio alle avventure Infocom di cui parlavamo prima, tutto quello che è i manuali, l'oggettistica e quant'altro. Una recente collection è stato digitalizzato in modo tale che si possa vivere un'esperienza simile ancora oggi, quindi questo è sicuramente importante. Dall'altro è importante perché la digitalizzazione permette anche di aggiornare, se vogliamo, questi giochi e renderli fruibili magari anche su macchine più moderne. Penso appunto a Google Games che recupera giochi vecchi e li rende fruibili anche su sistemi operativi più avanti. Il grosso problema magari è che qua ci stiamo un po' restringendo su quello che è l'ambito PC. L'ambito console, soprattutto per le vecchie console, è un po' tagliato fuori in questo momento da questo discorso, quindi diciamo che potrebbe essere un aspetto su cui varrebbe la pena riflettere e comunque pensare a qualche tipo di soluzione. Perfetto, allora sì, c'è l'ultimo aspetto che, di Carlo, che poi in realtà è una cosa che abbiamo parlato anche nella puntata zero di archeologia informatica, che è quello ovviamente del fondamento della conservazione, perché e questo a livello informatico chiaramente, quindi in generale a livello informatico, nello specifico a livello videoludico, che comunque è sempre informatico, perché è chiaro che non basta nell'ambito dell'informatica conservare soltanto l'informazione relativa all'oggetto, quanto è necessario ovviamente conservare anche le informazioni sulla macchina sulla quale poi sarà possibile replicare, emulare o addirittura ricostruire, insomma, l'oggetto per farlo funzionare come dovrebbe in un eventuale prossimo futuro. Insomma, questa è veramente forse la base un po' di tutto, perché poi l'emulazione va bene, ma spesso si faceva anche questo discorso qua, è anche interessante storicamente ricostruire proprio l'oggetto che faceva muovere il tutto, oltre semplicemente ad emularlo. Qua io penso che devo ringraziare Carlo e santificarlo, nel senso che ha introdotto quando uno fa proprio una spinta naturale verso l'idolazione si dice, sì dai passatemelo, idolatrazione, scusatemi, quindi cancelliamo. Quando uno ha una spinta proprio a idolatrare una persona, è giusto che in qualche modo venga espresso. Diciamo che introduce un concetto fondamentale che anche esso viene spesso, penso, in qualche modo messo ai margini, ovvero parlavamo qualche domanda dietro del fatto che alcuni giochi vengono liberati, quindi viene permessa la fruizione nel momento in cui si ritiene o comunque non si vuole più sfruttarli commercialmente. Questa cosa non succede assolutamente, almeno salvo rari casi, il Vectrex di cui ho parlato recentemente, uno di questi, le macchine non vengono mai rilasciate. Quindi questo cosa comporta? Che grande puntata poi, è lodata e sbrodata. Eccellente, ma chiaramente la classe della quarta stagione non è acqua. Diciamo che non vengono mai liberate, quindi in qualche modo innanzitutto nel momento in cui i supporti fisici, l'hardware, smette di funzionare, non è più possibile vivere un'esperienza uguale a quella che si poteva avere 10-15 anni fa, e quindi questa è una cosa pessima. E seconda battuta, non si può neanche in qualche modo costruire del materiale o comunque dei pezzi di ricambio che siano esattamente conformi a quelli originali, perché non si sa, non ci sono i progetti liberati, non c'è niente che ci permette in qualche modo di ricostruire l'esperienza. Aggiungo, e qua Carlo ancora ha doppiamente ragione, che è importante anche dal punto di vista storico, nel senso che sapere una certa macchina, perché è stata costruita, in che modo è stata costruita, che soluzione ha adottato, è qualcosa che permetterebbe di conoscere il problema o comunque il mondo videogioco veramente in maniera approfondita, di comprendere veramente perché un videogioco ha gli sprite così, invece che cos'ha, perché ha questo tipo di risoluzione, che tipi di limiti, certo, aveva. Quindi è veramente un discorso ampissimo che da solo meriterebbe ben più di una puntata, e meno male che c'è archeologia informatica che in qualche modo sì con Carlo non ci darà aiuto. Ma Carlo è veramente, io lo so posto rappresentare, allora, quello che ho detto adesso fondamentalmente. Mia moglie mi ha chiesto il perché, ma... è giusto così. Allora, l'ultima domanda, arriviamo alla sesta domanda, cerchiamo magari ci dispiace un po', però insomma, cerchiamo un po' di accelerare perché volevamo ovviamente lasciare questo speciale in tempi più stretti delle puntate classiche, e veniamo a quello che oramai per noi è una sorta di vater. Scherzo, chiaramente lo chiamiamo così scherzando su dietrologia videoludica, ma veramente è una sorta di filosofo del mondo videoludico, che è chiaramente Luigi Marrone. La sesta domanda è stata fatta a Luigi Marrone. Luigi fa un discorso molto articolato, molto elucubrato come il suo solito, ma ci sono due o tre spunti veramente interessanti sui quali poi ovviamente io punterei l'attenzione, ma vediamo insomma prima la domanda. Sì, diciamo che per chiudere ho pensato che potesse essere opportuno lavorare un po' su cosa ferma effettivamente la preservazione, o quali sono alcuni limiti, alcuni ostacoli che in qualche modo si vengono a incontrare. Quindi abbiamo chiesto qual durata dovrebbero avere i copyright per i videogiochi, e se credi che la pirateria possa giocare un ruolo positivo in questo ambito, ovvero nell'ambito della preservazione. Sentiamo un po' cosa risponde anche Luigi. L'urgenza di definire il diritto d'autore e di preservazione del videogioco è più o meno ciò che ha sofferto il cinema quando, assurgendo allo statuto d'arte culturalmente riconosciuto, ha destato l'urgenza di preservare le prime pellicole, inesorabilmente costrette all'obsolescenza e al deperimento materiale. Essendo il videogioco un costrutto puramente digitale, il presupposto tecnologico che presiede l'artefatto videoludico è una discriminante troppo centrale per paragonarlo a musica, ad esempio a film o altre forme espressive. Parlare di copyrights vuol dire forzare un accostamento alla disciplina dei diritti d'autore di altre forme d'arte, che risulta fuorviante. Innanzitutto la componente autoriale dei videogiochi è più liquida, meno definita, come avviene ad esempio per la scrittura, la musica, ove è più semplice attribuire la paternità dell'artefatto artistico. Col progresso tecnologico la produzione di un videogioco si è sfrangiata in una visione produttiva di stampo industriale, dove la figura dell'artista è naufragata alla deriva del concetto di creazione. Eloquente in questo caso lo stesso Hideo Kojima, uno dei più noti game designer esistenti, che ha affermato che i videogiochi, fatti per gli utenti, non sono arte, bensì servizi. Pensando ora ai diritti d'autore per un musicista, ad esempio, la disciplina è semplice: morto l'autore, compositore, poeta o scrittore, esiste un gioco di diritti che passa di mano in mano e che a volte continua nel tempo e a volte decade, cancellando il copyright. Ma la figura autoriale rivolta ai videogiochi è deflagrata nelle norme non scritte della produzione dello stesso. Quindi sarebbe prima necessario ripensare la disciplina dei copyright secondo le forme espressive da tutelare, creando ad esempio un ambito per la musica, uno per il cinema, uno per la letteratura, il teatro e il videogioco, che ad un'analisi più attenta come identità il videogioco è molto vicino alla forma espressiva del teatro, se uno ci pensa. Comunque, che io sappia, a livello politico non esiste nessuno oggi culturalmente preparato sui videogiochi che si sia preso la briga di disciplinare e legiferare in tal senso. Riguardo la preservazione videoludica, ritengo abbastanza fuorviante accostare il copyright, cioè la tutela dei diritti d'autore del videogioco, al concetto di preservazione stessa. La pirateria è intesa come mezzo di diffusione indiretto, ma comunque illegale, di preservazione del codice, potrebbe essere vista come un male necessario a una disciplina della preservazione lacunosa, ma resta comunque una mistificazione del concetto di preservazione digitale. La pirateria è legale, chi la sfrutta e vi lucra sopra è illegale. Trattarla alla strega di un male necessario andrebbe ripensato. Sarebbe molto meglio che il videogioco non fosse preservato dai pirati software, ma ad esempio delle istituzioni governative legalmente riconosciute e diffuse in tutto il mondo, che abbiano la competenza tecnica e la struttura tecnologica per fungere da musei di preservazione digitale. Esiste ad esempio da molto tempo la FGAMP, cioè la Federazione Europea degli Archivi di Videogiochi, Musei e Progetti di Preservazione, che è un'organizzazione no profit che si occupa di raccogliere e preservare, cito testualmente, a scopi scientifici e storici, tutto il materiale digitale nato negli ultimi tempi, in particolare i videogiochi. Quindi si occuperà di catalogare e preservare fisicamente opere e dati, di divulgare la conoscenza di queste opere e di continuare la ricerca di nuove soluzioni in campo hardware e software. Parlando poi di quantificare la durata temporale di quanto idealmente si possa o si debba continuare a mantenere operativi copyright su un videogioco, è questione a cui personalmente non so rispondere. Anche la disciplina della durata dei copyrights per le altre forme artistiche è ambigua. Prevedo comunque che col passaggio sempre più esclusivo alla distribuzione digitale, le server farm e quindi le nuove tecnologie di archiviazione e gaming nel cloud, sempre meno andrà perduto, rendendo il discorso meno pressante. Una cosa è certa: se riguardo ai giochi del passato non vi era una disciplina precisa a tutelarli e quindi a preservarli, coi giochi attuali che diverranno sempre più obsoleti sarà difficile che le software house permetteranno l'accesso e il gioco gratis. Questo perché il videogioco è divenuto col tempo un discorso sempre meno autoriale e sempre più aziendale. Allora, partiamo da Kojima che dice che i videogiochi sono servizi. Luigi, tu sta cosa la dici spesso, però posso dire veramente la mia opinione e te voglio bene e sono convinto che ha anche un senso, però a me mi sembra una gran cazzata. Cioè, nel senso che sì, sono dei servizi, come è un servizio un po' tutto, però poi in realtà i videogiochi sono delle opere, poi che possano non essere arte o non arte, questo è un discorso che poi abbiamo affrontato in 150.000 situazioni e poi ognuno ha sicuramente la sua difficoltà. Il fatto che i diritti, quindi i diritti d'autore, i diritti di sfruttamento, diciamo così, sono il problema che in realtà impediscono ai videogiochi di essere opere autoriali, anche qui andiamo un po', siamo un po' stretti come concetto, nel senso che posso comprendere il fatto che i diritti appartenendo alle grandi major probabilmente l'interesse è prettamente finanziario, ma questo è così anche nel cinema, pure il cinema viene considerato una delle arti, insomma, quindi evidentemente non è così in senso assoluto, spesso e volentieri sono situazioni, perle, picchi o cose particolari che comunque in qualche maniera rompono un po' questo tipo di discorso, così come lo fa il cinema indipendente o i videogiochi indipendenti, Roberto, penso, no, insomma, è un po' troppo dogmatica come affermazione. Diciamo che appunto parte secondo me da un presupposto che è sicuramente corretto, ovvero che il videogioco non è il cinema, non è musica, quindi probabilmente ci vorrebbe la concezione di copyright focalizzata per quello che è meglio un videogioco. In questo momento non esiste e soprattutto perché spesso, anche qua mi sento di dare ragione a Luigi, si va verso una direzione più commerciale, ovvero si pensa al prodotto videogioco appunto come un prodotto e quindi non come qualcosa di meritevole di essere conservato probabilmente, ed è un po' l'opinione che vorremmo scardinare con questa puntata. Detto questo, non sono così convinto che appunto non sia il concetto di preservazione sia così legato a doppio filo col concetto di autorialità, nel senso che magari la preservazione può vivere di vita propria, anzi deve vivere di vita propria, perché se no altrimenti si rischia di tornare un po' al discorso, diciamo, inizialmente, che le opere di Tizio le conservo, le opere di Caio no, perché non è un autore importante, ecco. E penso non siamo ancora maturi per fare questo tipo di discorso, sicuramente. Allora, altro aspetto sul quale punta l'attenzione Luigi è il fatto che comunque la cultura in generale, ma ancora di più la politica, non è pronta per concepire il videogioco come materiale necessario di preservazione. Mi sfuggiva un attimo il termine. Un termine cosa che non abbiamo usato stasera, quindi penso che non abbiamo mai usato, e quindi è chiaro, mi si è cancellato completamente dalla TBC mentale che ho. Quindi la politica non ha ancora questa sensibilità, non è ancora pronta. Dall'altra parte invece c'è la pirateria, che non è necessariamente un male assoluto, perché permette, e un po' ritorniamo al discorso che fece Andrea all'inizio, la duplicazione, quindi in qualche maniera indirettamente anche la preservazione. Guarda un po', sono due aspetti, insomma, che andrebbero considerati, Roberto. Sì, partiamo un po' anche da un altro aspetto da considerare, nel senso che la classe politica attuale è una classe di una generazione, soprattutto in Italia, formata da gente che il videogioco probabilmente non sa neanche cosa sia, quindi sicuramente culturalmente c'è un problema di fondo. Se pensiamo che di norma il videogioco per alcuni classi, per alcuni politici, è il videopoker da bar, capite bene che c'è un problema di fondo. All'interno di questo problema di fondo si inserisce poi tutto il resto, la pirateria che effettivamente permette la preservazione di alcuni videogiochi, però nel senso non si può comunque moralmente giustificarla, quindi in qualche modo c'è una zona grigia, una zona d'ombra su cui è necessario lavorare, e lavorare tanto, nel senso che noi parliamo dell'Italia per esperienza diretta, ma in alcuni paesi si è un po' più illuminati, ma la situazione in generale non penso che sia così diversa. Quindi effettivamente bisogna capire un po' quanto la pirateria possa essere un male necessario e quanto invece è una giustificazione che ci stiamo dando perché è comodo, ecco, fondamentalmente perché è comodo. Però io non sono proprio del tutto in disaccordo col pensiero di Luigi, che chiaramente ribadisce il fatto che in realtà dovrebbero essere le istituzioni a occuparsi di una preservazione di una qualsiasi cosa che comunque è il riflesso del genio umano e quindi di conseguenza anche della nostra cultura. E l'ultima cosa sulla quale io punterei l'attenzione, poi andiamo veramente a chiudere, è il fatto che la durata dei copyright può essere un problema per quanto riguarda il discorso della preservazione. Roberto, io qui non ho una non ho un'idea proprio definita, insomma, in merito a sta cosa, insomma, perché poi in realtà penso che la preservazione prescinda da tutto. Probabilmente è giusto che ci siano delle deroghe, diciamo, per certe cose, ma in realtà, sai, il diritto d'autore con la preservazione, secondo me, però può essere anche che ho frainteso io male, insomma, il discorso che ha fatto Luigi, non è che... Guarda, ti dico, il discorso mi rilascio un po' a quello che dicevo all'inizio delle risposte di Luigi, nel senso che ci vorrebbe un discorso di copyright specifico per i videogiochi. Questo perché se un film di 20 anni fa o di oggi sostanzialmente puoi fruirlo con lo stesso mezzo, il DVD per esempio o la videocassetta o quant'altro, quindi c'è comunque stata una velocità di cambio di supporto, se vogliamo meno rapida, meno incisiva, ecco. Su videogioco invece si rischia in tempi rapidi di non avere la possibilità di fruire più un videogioco, quindi in qualche modo la durata secondo me dovrebbe essere commisurata con questa velocità di rotazione dei sistemi e dei supporti che altri media non hanno. Il libro è sempre quello da secoli, quindi diciamo che ci vorrebbe una riflessione specifica, e questa riflessione può essere chiaramente fatta solamente, come giustamente dice Luigi, a livello istituzionale, e finché non si fa giustamente la pirateria qua, gioco libero, per in qualche modo portare avanti un discorso che rimane comunque importante. Perfetto, allora io non mi resta che ringraziare Luigi Marrone per questo suo ennesimo, come sempre, stimolante intervento. A questo punto, in maniera molto rapida, andiamo anche, insomma, a ringraziare Roberto tutte le persone che ci hanno dato la loro disponibilità, come Andrea Dresseno, ovviamente dell'archivio videoludico di Bologna, Giansandro Rosasco, direttore fondatore della MEC. Abbiamo Michela De Rosa, sempre ovviamente curatrice e fondatrice della Mecca. Abbiamo Simone Akira Trimarchi, che ovviamente anche lui ci ha fatto il suo bel discorso particolarmente intenso e stimolante. Carlo Sant'Agostino, che è immancabile e lo ritroverete ovviamente in Archeologia Informatica, e Luigi Marrone, che ci hanno dato la loro disponibilità e hanno dedicato, insomma, il loro tempo per rispondere a queste 6 domande uscite dalla mente malata e contorta di Roberto Bertoni. Questo è un po' il discorso che abbiamo cercato di fare, tirando un po' le conclusioni. Insomma, penso che gli aspetti fondamentali sono che la preservazione è fondamentale, che la preservazione va fatta nell'insieme dell'oggetto, e non soltanto, che la preservazione va fatta anche assieme a tutto quello che è il bagaglio che ovviamente l'oggetto si porta dietro, che può essere ovviamente la stampa, la pubblicità, tanto quanto magari anche l'hardware annesso e connesso che può essere inserito, insomma, nel contesto. Roberto, l'ultimo magari sintesi, l'ultimo riassunto di quello che è un po' il tuo pensiero, così poi andiamo chiaramente a salutare i nostri ascoltatori e poi ritorneremo in una puntata standard di Archeologia Videoludica. Dopo vi dico anche di che cosa parleremo, wow, così potete tranquillamente mandare lettere minatorie al direttore editoriale. Grazie, quindi aspetterò con ansia la casella alle poste. Si mette davanti alla cassetta della posta. Esatto, non mi muovo di lì finché non arriva almeno una lettera, quindi sappiate che se volete migliorare Archeologia Videoludica non mandate lettere, così sono occupato ad aspettare. Sì, diciamo che è stata una puntata veramente interessante e mi ho permesso finalmente di approfondire, e quindi ringrazio anche Simone, un argomento che mi sta particolarmente a cuore, un argomento che credo che, come abbiate capito, merita di essere approfondito, discusso, dibattuto, in qualche modo se ne parli, si crea un po' una coscienza di questa preservazione. È un argomento che comunque è ancora agli albori, bisognerebbe probabilmente standardizzare alcuni metodi di conservazione, bisognerebbe approfondire e riuscire a delimitare bene cosa e quanto conservare. Insomma, ci sono veramente tanti spunti e non ne escludo che magari nella mia lungimirante politica editoriale ne torneremo a parlare, ecco. Quindi Speriamo, se avete avuto interesse ad ascoltare questa puntata e lo manifesterete con le lettere di qui sopra, ecco, magari in qualche modo ci torneremo o approfondiremo magari alcuni aspetti che vi hanno in qualche modo colpito. Detto questo, direi appunto ringraziare tutti quelli che hanno risposto, quindi scusateci per i tempi stretti, scusateci per le rotture di scatole, ma veramente grazie a voi credo che sia una puntata che rimarrà un po' nella nostra storia del podcast, quindi vi ringrazio profondamente. Ok Roberto, grazie del tuo tempo, grazie a tutti quelli che insomma hanno contribuito a questa puntata, ringraziamo ovviamente il resto dello staff di Archeologia Videoludica che non ha partecipato, ringraziamo tutti quanti gli ascoltatori, ci ascoltiamo fra non pochi giorni perché chiaramente come sapete Archeologia Videoludica è una trasmissione ad appuntamento mensile, ma questo mese essendoci stato lo speciale abbiamo praticamente 3 puntate nell'arco di 30 giorni, insomma, quindi festeggiate tranquillamente con i vostri iPod, iPad, iPad o qualsiasi cosa essi siano. www.archeologiavideoludica.it è il nostro .net è il nostro sito di riferimento. Ovviamente questa è una trasmissione, non l'abbiamo detto all'inizio, coprodotta con allgamesitalia.net e insomma Archeologia, no, Videoludica è il nostro Twitter, Archeologia Videoludica è la pagina che trovate sia su Facebook che su Google Plus. La prossima puntata si intitolerà Quel che resta, è un grande titolo insomma del nostro direttore editoriale, in realtà andremo a concludere finalmente, forse, non è detto, quella che è la seconda generazione di console che abbiamo lasciato abbandonata a se stessa sull'angolo della strada 2 anni fa, quindi figuratevi. Sì, poi volevo soltanto dire che il titolo alternativo era ancora meglio e non so perché è stato cassato. No, la seconda era bellissima, cioè questo è un capolavoro di simpatia e concetti di marketing, veramente. Vabbè, andrà come andrà. Va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Signore e signori, buonanotte. Ciao.